Cecilia Francini, medico di base, che lavora alle piagge. Ciao. Ciao, Allora, come sono grazie per andati? averci invitato. Grazie a te per dare il tuo contributo. Volevamo chiederti come sono andate queste ultime mesi di lavoro, come vi siete organizzati e anche un po' come è cambiata la vita dei medici di base, in questa emergenza. Devo dire che l'ultimo mese è stato molto impegnativo da un punto di vista professionale perché ci ha costretto a rimodulare tutto il lavoro quotidiano a fronte, diciamo, dell'emergenza sul coronavirus. Quindi il nostro impegno è stato in questo periodo di mantenere l'assistenza, chiaramente di assistere pazienti con coronavirus positivi, ma anche di mantenere nello stesso tempo l'assistenza alle persone croniche affette da patologie invalidanti che per esempio avevano bisogno e continuano ad aver bisogno di visite domiciliari e di assistenza continuativa. Questa è una sfida complessa perché chiaramente questo ci ha messo alla prova e ci ha veramente richiesto un cambiamento importante nel nostro stile di lavoro. E noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare in gruppo e anche di lavorare soprattutto in un presidio sanitario all'interno dell'azienda sanitaria dell'ASL, quindi è un progetto sperimentale che ci permette di stare all'interno dell'azienda sanitaria. Questo è stato molto tutelante nei nostri confronti e nello stesso tempo anche importante per i pazienti perché ci ha consentito di dividerci all'interno del gruppo proprio in diverse responsabilità, quindi abbiamo scelto proprio di dividere un percorso per i pazienti Covid e un percorso per i pazienti non Covid. Quindi i pazienti Covid vengono normalmente triagiati telefonicamente, chi ha sintomi influenzali, quindi viene indirizzato, diciamo, su un percorso e poi su uno dei medici del gruppo che in questo momento sta dedicando solamente ai pazienti Covid. Gli altri due medici del gruppo, sono io e un'altra collega, ci stiamo invece dedicando ai pazienti no Covid e quindi questo ci consente anche di avere due percorsi diversi per mettere in sicurezza le persone che non sono Covid positive e che quindi, diciamo, possono venire in ambulatorio, noi possiamo andare a domicilio senza mettere in pericolo nessuno. Ecco, avete ricevuto presidi, dispositivi di sicurezza, tutto bene? Allora, il collega che si occupa dei pazienti Covid positivi lavora con le unità speciali, che sono delle unità che sono state designate dall'azienda sanitaria per assistere pazienti coronavirus positivi e quindi lavora con uno standard di protezione alto, nel senso che lavora quindi con mascherine FFP2, camici impermeabili e quindi gli consente proprio di prestare assistenza fisica e anche di fare i tamponi alle persone che sono coronavirus positive. Noi che lavoriamo con i pazienti puliti, tra virgolette, lavoriamo con standard di protezione più bassi, previo però triage telefonico, quindi tutte le persone che vengono in sede vengono prima triagiate, quindi poi vengono screenate all'ingresso attraverso un termoscan e quindi noi ci consente di lavorare con dispositivi di sicurezza un pochino più bassi rispetto a quelli con cui lavora il nostro collega che lavora con i pazienti invece che sono, diciamo, sospetti coronavirus o coronavirus accertati. Questi sono a disposizione dell'azienda recente, delle ultime settimane, che ci ha permesso anche di tirare un po' fiato, no? Ci ha permesso anche di lavorare più in sicurezza. Quindi devo dire, io al momento mi sento serena e soddisfatta del lavoro che stiamo facendo, mi sento adeguatamente protetta anche per quello, diciamo, che faccio e che si può fare. Ecco, voi lavorate fra l'altro alle piagge, è un quartiere molto particolare, per svariati motivi che non sto qui a elencare, però siete tra le poche persone che hanno la possibilità anche di incontrare, gli abitanti, e quindi come li vedete, che sensazioni c'è? Noi ci siamo resi conto, soprattutto lavorando con i pazienti cronici e con disagio sociale, già da prima ci siamo resi conto che questa situazione emergenziale ha proprio creato un grosso scompenso per le persone che già, diciamo, erano fragili, che avevano problematiche di tipo psichico o che vivevano, diciamo, in contesti di marginalità sociale. Quindi il nostro impegno in queste settimane è stato anche quello proprio di richiamare in maniera attiva le persone con grossi problemi di disagio. Quindi quando andavo così alzato il telefono, quindi utilizzando anche il grossissimo contributo di studenti di medicina, corsisti del corso di formazione in medicina generale, che si sono tutti prestati a fare una richiamata attiva al paziente attraverso i vari canali, il telefono, l'email, i volantini, proprio che abbiamo lasciato distribuito attraverso le ricette che davamo ai pazienti, e per cercare proattivamente le persone che più potevano avere disagio da questa situazione, quindi siamo andati a cercare gli anziani soli, pazienti psichiatrici, pazienti con disabilità sociali. E su questo abbiamo fatto un lavoro di grosso coordinamento con le associazioni che si sono prestate con tutti gli strumenti che loro avevano, quindi dai pacchi alimentari ai recapiti a casa, che tanto le ricette, fino diciamo, a proprio prendere in carico di situazioni di grossa fragilità sociale, anche grazie al contributo diciamo, degli altri servizi del comune, in particolare dei servizi sociali che abitano proprio sopra di noi, all'interno della casa della salute, con i quali siamo in grosso coordinamento. Quindi ci preoccupa la situazione perché sappiamo bene che più si protrarranno queste misure restrittive, più diciamo, maggiore sarà la crisi economica, più sarà l'impatto sulle popolazioni più vulnerabili. Ecco, ma tutta questa situazione, che ragionamenti induce te o in generale i medici di base che si trovano a affrontare questa emergenza? Induce il fatto che in questo momento bisogna, secondo me, tenere duro e cercare di rispettare le norme che si impostano dal Ministero per cercare il più possibile di uscire il prima possibile da questa situazione sanitaria emergenziale. Induce anche a pensare che in questo periodo, da un punto di vista proprio di strutturazione dei servizi, sono venute a galla tutte le criticità del sistema sanitario nazionale. Quindi noi siamo stati un po' fortunati perché la nostra scelta diciamo, ci ha permesso diciamo, di stare in un ambiente protetto, però mi rendo conto che molti colleghi, soprattutto in altre regioni, si sono trovati in grandi criticità che dipendono tanto anche dalle scelte politiche fatte sul sistema sanitario. Quindi parlo del personale, degli appalti, spesso a strutture convenzionate nelle quali si ha poco controllo sulle situazioni e in maniera particolare sulla carenza grossa del sistema di cure primarie che ha mostrato un po' una difficoltà di gestione sul territorio in linea generale dell'emergenza coronavirus. Quindi io penso che in questo momento è un momento importante per noi per ripensare proprio a come ristrutturare il sistema sanitario e quali possono essere tutte quelle situazioni che ci possono permettere, di quegli interventi che ci possono permettere di investire soprattutto sul territorio, che in questo momento è quello che secondo me ha mostrato di essere debole. Ecco, nella tua esperienza lavorativa hai anche a lungo lavorato con i migranti in situazioni di estrema precarietà, anche abitativa, quindi un po' un pensiero e un po' la tua opinione su quanto comporta per queste persone così fragili. Guarda, io penso che sulla situazione degli stranieri, cioè, guarda, chiaramente penso che bisogna fare una distinzione tra stranieri e stranieri, cioè gli stranieri sono perfettamente integrati e gli stranieri invece vivono in contesto di precarietà. Noi a due passi dalla Casa della Salute abbiamo una situazione di grandissima precarietà, per esempio, che ci preoccupa alquanto, che è uno stabile occupato dove vivono quasi 120 persone di origine rumena e che vivono diciamo, in un contesto di gravissima precarietà. Ecco, i servizi, le istituzioni, la ASL, il Comune dovrebbero occuparsi anche proprio all'interno di questa emergenza sanitaria delle situazioni più precarie perché sono quelle che costituiscono un rischio grosso per gli abitanti e anche per la questione pubblica. Quindi l'invito è quello di pensare, cioè l'invito che mi piacerebbe fare alle istituzioni e sul quale sono personalmente, come medici in generale della Casa della Salute, ci stiamo muovendo per sollevare anche alle istituzioni, in particolare all'azienda sanitaria, per testimoniare che esistono anche delle situazioni di grande precarietà di cui l'ASL deve iniziare a farsi carico. Bene, per concludere, hai qualche suggerimento, qualche consiglio da dare a chi ascolta? Riguardo In naturalmente questo la tua momento posizione. quello di stare in casa e di pensare a un momento di grande difficoltà che ci, non solo per la nostra salute fisica, ma anche per la salute mentale. Quindi, anche se in questo momento, diciamo, l'invito è quello di rimanere a casa il più possibile e di rispettare le norme di sicurezza, però c'è anche una comprensione che queste situazioni in cui contingentali in cui ci troviamo è anche una situazione complessa da vivere. Quindi l'appello è quello anche alla condivisione, no? Del malessere uno può, che può vivere all'interno delle proprie giornate quotidiane, delle difficoltà che vanno condivise, che si possono condividere in vari mezzi, cioè con gli amici, con il medico di famiglia, con le reti familiari, e esistono anche dei servizi dedicati al quale, diciamo, ci si può rivolgere se queste situazioni diventano veramente complesse e difficili da gestire. Quindi esistono anche dei servizi dedicati, psicologi che pensano a volte che possono fare una presa in carico psicologica, sono messi a disposizione da parte degli ordini di psicologi. Chiamate, non sentitevi soli. Bene, grazie allora. Buon lavoro. Prego, grazie a